Bravissimi! Ora che conoscete la forza da applicare, dovrete posizionare un oggetto pesante all'estremità opposta della leva per attivarla. Ma quanto deve pesare questo oggetto? Per scoprirlo, dovrete calcolare la massa necessaria per generare una forza sufficiente. Usiamo la formula forza uguale massa per accelerazione gravitazionale, che sulla Terra si può approssimare a 10 metri su secondo al quadrato. In questo caso, sappiamo già quanta forza serve. 4.500 newton. Quindi, quanti chili deve pesare l'oggetto per esercitare almeno quella forza?